trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti a Proxy Bar, benvenuta Daniela Apollonio. Ciao Antonio. Come stai? Meglio, grazie. Benissimo. Allora, oggi puntata nella quale ci sentiamo sicuramente a casa nostra, ancora una volta forse leggermente autoreferenziale, parliamo di podcasting indipendente. Perché che è autoreferenziale? Beh, qualcosa a che fare con la radio ce l'ha, poi io qualche podcast lo faccio. Sono uno strumento, dai. Sì, già ti vedo scettica. Va bene, allora, visto che siamo un po' in ritardo, anzi siamo drammaticamente in ritardo, direi di cominciare subito con il primo inserto. Siete sintonizzati su Altrove, il luogo dove l'onirico incontra la fantasia, dove la musica si inventa le immagini, il luogo dove diminuisce la distanza con se stessi. Chiudi gli occhi ed apri la mente. You're listening to the Night Passage Podcast, independent jazz with your host Renato. Hello everybody, it's been a long time, eh? Well, here we are, this is the Night Passage Podcast number 38. And we're going to start with something real special. Piero Umiliani with Chet Baker. You know that Chet Baker lived many years in Italy. He also spent... Eccoci qui, buongiorno a tutti, buongiorno, bentornati su Rockast Italia. Questo è l'episodio 107 di domenica 15 aprile 2007. Siamo tornati a incidere di domenica, una volta tanto una domenica pomeriggio libera. Benvenuti su Tecnica Arcana Telegrafica, TAT numero 19. In questa puntata parleremo di telefonia voice over IP su standard SIP, delle follie dell'operatore mobile Wind con le nuove... Allora, abbiamo fatto un tuffo in mezzo a qualche podcast indipendente, alcuni tra i più popolari, e oggi abbiamo l'onore di avere qui in studio Renato Biolcati Rinaldi, che è l'autore di uno dei podcast indipendenti più seguiti realizzati in Italia. È un podcast dedicato alla musica jazz, è intitolato The Night Passage. Benvenuto Renato. Ciao, grazie, anche grazie per l'onore. Allora, come ti senti in una radio, come dire, con la console, con... È una sensazione bellissima, mi sento a casa mia. Questo è bello. Che, mi piace molto questo ambiente, poi... Questa radio in particolare è bellissima, mi piace molto. Sì, diciamo che è ancora intonsa, immacolata. Poi ci sono le radio vissute che, sebbene siano tecnicamente all'avanguardia, poi però si accumulano così dei cumuli di spazzatura negli angoli. Qui ancora veramente... No, ci sono, ma sono nascoste, tranquillo. Ci pensi tu a nascondere? Certo. Benissimo, allora The Night Passage secondo me è l'esempio più evidente che, unendo una grande passione a dei contenuti di valore, è possibile realizzare un podcast di successo, pur non avendo a disposizione particolari attrezzature né grandi competenze tecniche, giusto Renato? Sì, infatti diciamo questo successo è una sorpresa anche per me, forse diciamo che... Essendo stato fra i primi forse a fare questo tipo di cose e considerando anche che il jazz è musica un po' di nicchia, piano piano ho cominciato ad avere un certo numero di ascoltatori che è andato sempre aumentando. Poi ho avuto un po' di colpi di fortuna, un po' che Google mi mette sempre in testa quando scrivendo Jazz Podcast. Beh, lì c'è stata la tua furberia di aggiungere la parola jazz al nome del... Quello sì, diciamo la mia esperienza di blogger in questo, questo campo ha contribuito. E poi sono stato aggiunto a, non so se conosci la Jazz Radio Tool Board, che sì, una, sì, sì, mi hanno aggiunto in questa, che mi ha portato tantissimi molti ascoltatori. Anche... Sono queste toolbar che imperversano su internet, sì, e le radio fan sgomitano per entrarci. Poi un'altra furbata secondo me è stata quella di fare il podcast in inglese, cioè in questo modo hai intercettato diciamo radioascoltatori anche lontano dall'Italia. Questo perché all'inizio c'erano ancora pochi podcast in italiano. Veramente il mio primissimo podcast era in italiano. Poi quello lo abbandonai, ripresi con questo qui in inglese perché diciamo è stata un po' una sfida. L'inglese io non è che lo utilizzo come lingua straniera, ma come lingua universale. Diciamo che io mando soprattutto musica jazz, che vorrei fare ascoltare ad un pubblico più ampio possibile, e l'inglese mi consente questo, lo ascolto in Giappone, in Messico, in Belgio, in India mi arriva un'email, e quindi e ovviamente negli Stati Uniti, dove certo, la maggior parte dei miei certo ascoltatori, mi piace tantissimo il fatto che mi ascoltano nella metropolitana di New York, cioè sai questa cosa. Certo, capisco. Adesso con te, Renato, che hai osservato questo fenomeno bene o male dall'inizio, vorrei provare a fare una fotografia del podcasting indipendente italiano. Secondo me abbiamo vissuto, dico abbiamo perché anche io ho fatto dei podcast in passato, abbiamo vissuto una fase di boom all'inizio, forse un po' un boom drogato dal fatto che era, come dicevi tu, una novità, i media ne parlavano come l'ultima moda di internet, e poi c'è stato però un primo rallentamento. Infine però oggi forse stiamo assistendo ad una fase di maturazione, nel senso che adesso chi comincia a fare podcast non lo fa per provare, non è una cosa mordi e fuggi, cioè ormai ha sempre un progetto, idee veramente originali, e poi ci sono anche strumenti sempre più potenti per, anche per promuovere, no? La propria produzione. Sì, soprattutto adesso è molto più facile. I primi podcast, io mi ricordo che il feed bisognava compilarlo a mano, e non era semplicissimo. Adesso ci sono degli strumenti che ti consentono di realizzare un podcast semplicemente spingendo un bottone e registrando la tua voce, poi è tutto un processo automatico. Comunque questa fase calante che c'è stata dell'interesse riguardo ai podcast l'ho notato un po' a livello internazionale. Io prima per esempio facevo parte di un'associazione che si chiama l'Association of Music Podcasting, erano molti podcaster che facevano dei podcast soprattutto di musica, e all'inizio c'era tantissima furia, i forum c'erano tantissimi post, ci aiutavamo. Ma questo calo che tu hai notato non potrebbe dipendere dal fatto che adesso in America devono pagare le musiche con i diritti? No, questo non credo, perché io sto parlando anche di podcast sostanzialmente vocali, diciamo. Certo, parlati. Parlati, e poi soprattutto i podcast mandano musica, diciamo così, pod safe, fra virgolette, che in cui praticamente tutti i diritti o non ci sono, oppure è musica rilasciata su licenza Creative Commons. Oddio, ci sono anche delle eccezioni. Dai, la tua rubrica ad esempio non è solo Creative Commons, cioè... No, Creative Commons no, però diciamo quasi tutti i dischi che mando me li spediscono o li scarico da directory apposta. No, sono, per esempio, c'è Ayoda Alliance, è un servizio fatto apposta per i podcaster. Loro sono associati con delle etichette indipendenti e praticamente curano, fanno da intercalare fra il podcaster e l'etichetta indipendente. Loro consentono ai podcast di scaricare determinate canzoni che loro praticamente, come dicono in inglese, puliscono, clean, in modo tale che possiamo trasmettere senza incorrere, diciamo, negli strali del... Questo poi ovviamente negli Stati Uniti d'America, perché in Italia già c'è un'altra legislazione, certo. Infatti... è un po', diciamo, controverso. Sì, non si sa bene. Sì, sì. E beh, siamo in una fase in cui semplicemente la tecnologia ha scavalcato forse la normativa, e quindi ancora bisogna assestarsi. È quasi sempre così. Tornando al jazz, la cosa che io sono appassionato di musica jazz, è la musica che ascolto al 90%, questo mi spiega anche il motivo per cui mi sono abbonato fin dall'inizio al tuo podcast. È un interesse ancora di nicchia che però in Italia sta conquistando un pubblico sempre più grande come genere. Lo testimonia il grande successo che hanno per esempio i festival estivi, no? In giro per la penisola. Però la sensazione è che per esempio nella radio tradizionale in modulazione di frequenza è ancora un'impresa riuscire ad ascoltare musica jazz che possa definirsi tale. Cioè magari vanno molto forti artisti che vengono presentati come jazz, tipo Norah Jones, Michael Bublé, mi viene in mente persino Dionne Warwick, è stata a un certo punto una invitata a Villa Celimontana, bravissima. Tutti Diana grandi, Kroll. Diana, ma sai, Diana Kroll ce l'ha secondo me una venatura, però insomma Dionne Warwick non direi proprio. Perché bisogna creare intanto l'argomento da salotto, cioè dici vado a sentire jazz a Villa Celimontana e poi sei anche contento perché vedi Dionne Warwick, no? Poi torni a casa e pensi di aver visto o ascoltato jazz, però in realtà il jazz vero secondo me è un'altra cosa. Poi è vero che anche queste definizioni lasciano un po' il tempo che trovano, adesso è una musica sempre più contaminata, però quello che voglio dire è che oggi come oggi se uno vuole sentire il jazz tradizionale, diciamo così, a parte i podcast non ci sono grandi possibilità. Io stesso sono abbonato a dei podcast americani, per esempio, che trasmettono vero jazz, ma se dovessi sintonizzarmi sulle radio in FM non troverei niente. No, sulla radio nazionale e anche locale italiana assolutamente c'è il deserto assoluto. C'è internet dove ci si può collegare anche a radio americane, web radio americane o ai podcast. C'è anche Radio Imago con jazz, scusami, ce l'hai in casa. Sì, no, ma è sempre una web radio, questo dico. Il problema è che appunto per il momento... Sì, io mi riferivo soprattutto alle web radio che in America trasmettono anche in FM, che molto spesso hanno... D'accordo. E provando a lanciare lo sguardo così fuori dai nostri confini, recentemente tu sei stato a questo evento a Birmingham, no? In Inghilterra, sì, Podcamp UK. Il Podcamp UK, com'è andata? Cioè, io mi immagino che gli ultimi trend siano venuti fuori da lì. Ma guarda, tu sei molto esperto di Barcamp perché so che partecipi a diversi Barcamp, come ti ho incontrato ad alcuni di questi, abbiamo fatto anche gli interventi insieme. Praticamente l'atmosfera è quella che conosci bene. Ci sono tante persone che hanno tutti in comune lo stesso interesse, che si scambiano informazioni, parlano, ascoltano cose interessanti, cose meno interessanti, c'è chi ci va per conoscere gente oppure semplicemente per, non so, per farsi pubblicità, anche certo, perché questo capita. E i nuovi trend, lì si è parlato molto di podcast video al Podcamp UK, moltissimi degli interventi c'erano... diverse, per esempio tutto è stato trasmesso in diretta su blogtv.com, credo sia blogtv.com, sì, sì, che partecipavano anche a questo podcamp. E niente, su questi, soprattutto sui contenuti video si è parlato, di quelli radio eravamo un po', di quelli diciamo soltanto audio e musicali era un po', diciamo, la minoranza. Eh sì, adesso va di moda la TV e quindi come fenomeno di moda. Beh, adesso mentre sentite di sottofondo la musichina del mio telefono che ho dovuto riattaccare per un attimo, direi di fare una pausa musicale, ma visto che parliamo di podcasting ti accorgerai che è una pausa musicale un po' particolare perché in realtà è una mia registrazione che ho fatto in treno qualche tempo fa. Grazie a tutti, buongiorno, buona giornata. Che un segno? Di onde llega? De Colombia. Già tanto tempo. Grazie. E tanti anni? Ma sentite che poi si viene. No, è scocciato perché poi alla fine quella è la canta, la riganta. Scorsa notte un caro amico che saluto con affetto, noto con lo pseudonimo di Lizard, mi ha detto: perché fai questi podcast? Sprechi parecchio del tuo tempo libero alla ricerca di argomenti, alla ricerca di musica da far ascoltare, quando potresti dedicare lo stesso tempo alla tua musica. Ma ne vale la pena se ad ascoltarti sono poche persone? Ebbene, l'osservazione di Lizard mi ha turbato e mi ha portato ad una profonda riflessione e ad una vera conclusione. Il podcast mi ha regalato delle emozioni che neanche un palco con 2000 persone mi ha dato. Il podcast lo faccio in primo luogo per me stesso e per certi versi un alibi per studiare nuovi argomenti. È sicuramente il mezzo più semplice per esprimere le mie emozioni, scambiando le mie con quelle di altri artisti che hanno provato ed espresso in musica gli stessi stati d'animo. Bene, la voce molto profonda che abbiamo sentito è quella di Marcello Salamone, detto Mapo, che è un musicista indipendente dei Sogno Lucido in particolare, nonché autore, secondo me, di uno splendido podcast chiamato Altrove. Buonasera Marcello. Buonasera, ciao Antonio. Ciao Marcello. Ciao Marcello. Ciao a tutti quanti, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Mago e di Proxy Bar. Sì, in studio c'è anche un altro collega podcaster che è Renato di The Night Passage Podcast. Ah, sì. Ciao Renato. Ciao oggi Marcello. Cambiati qualche feed. Sì, come no. Benissimo, dunque, in Altrove la musica che proviene rigorosamente da artisti indipendenti si mescola, no, a queste riflessioni a tema pronunciate con questa voce che sembra venire dall'oltretomba e che comunque gioca sapientemente, no, con i suoni circostanti. Marcello, com'è nata l'idea di Altrove? Sì, dunque, praticamente Altrove nasce un po' come un'esperienza o un'esigenza personale, nel senso che spesso ci sono delle situazioni o degli stati di riflessione molto intimi che non trovano riscontro in parole di semplici canzoni o di poesie o anche di una fotografia. E allora, in parole povere, dopo l'esperienza di Podcast Italia, dove insomma è un po' un'atmosfera un po' più free, sentivo l'esigenza di mettere su qualcosa che riuscisse a manifestare questi stati d'animo, però non con musiche fatte mie, perché spesso appunto una sola canzone non rappresenta tutto quello che si vuol fare. Allora, siccome in giro c'è una meravigliosa musica indipendente, ho cominciato a pensare, ma perché non creare quelle atmosfere che mi piacciono la notte, perché fondamentalmente sono un sonnambulo, certo. quelle atmosfere sfruttando queste meravigliose musiche che si trovano in giro. Sì, non sei il solo che registra i podcast di notte, no? C'è anche, se non sbaglio, il Nissardo che registra. Sì, il Nissardo, ma è anche un po' uno dei miei, tra virgolette, guru. Abbiamo un po' cominciato insieme, però inizialmente lo ascoltavo anche un po' come riferimento, e poi anche il vostro Mayakura, sì. Per me è un capolavoro, un podcast un capolavoro, un po' una linea guida. Quindi inizialmente ascoltando questi podcast ancora da ascoltatore ho maturato un po' questa visione e quindi ho cercato di creare un qualcosa un po' più di mio dove manifestare questi stati d'animo accompagnati un po' da questa musica. Alla fin fine sono un po' poi delle riflessioni per qualcuno anche un po' spicciole che comunque vi pongo, infatti anche in alcuni episodi ho detto faccio un podcast più per me, mi fa piacere se qualcuno trova riscontro nell'ascoltarmi, significa che c'è qualcuno in sintonia, quindi c'è un dialogo con qualcun altro. Ecco, lo voglio chiedere sia a Marcello che a Renato, i vostri sono podcast comunque musicali, si potrebbe dire, no? Dove la musica ha un ruolo fondamentale, quanto effettivamente i podcast stanno aiutando i musicisti? Lo chiedo prima a Mapo che manda in onda soprattutto musica indipendente. Sì, dunque, guarda, io ti posso rispondere sia da podcaster che da musicista, perché con il Sogno Lucido sono immerso in questa realtà. Diciamo che aiuta tantissimo fondamentalmente l'artista, secondo me, anche a trovare un feedback della propria musica. Allo stato attuale non so quanto economicamente possa aiutare un artista, però comunque in alcuni casi, anche nel nostro, come Sogno Lucido, abbiamo avuto un paio di richieste, insomma, nel senso hanno acquistato i nostri CD online tramite CD Baby e quindi siamo riusciti un po' a coprire quelle che sono le piccole spese di produzione, perché comunque ci muoviamo nell'ambito dell'home producing. E per il resto poi è un po' un modo, è una vetrina, di conseguenza ecco, ti dà la possibilità di confrontarti e incontrare musicisti anche di un certo livello con cui scambiare delle idee, delle opinioni e anche degli, diciamo, entrare in un movimento nuovo di musica e quindi cavalcare l'onda, certo, dal punto di vista delle nuove sonorità, ecco. Renato? Sì, e poi assolutamente un musicista, soprattutto jazz indipendente, anch'io mando soprattutto musica indipendente, ha la possibilità di farsi ascoltare anche praticamente in tutto il mondo. Io faccio l'esempio di Robin Stein, che è, sì, una cantante jazz, che praticamente lei gira per esempio per i club di New York, però grazie ai podcast è famosa, diciamo, non famosa, però insomma è arrivata a un certo livello di conoscenza anche nel resto del mondo. E poi, grazie proprio a questo tipo di strumenti. Grazie, poi io nei miei podcast metto sempre il linkino sia ad iTunes che, sì, a CD Baby quando, sì, sono, sì, disponibili. E diciamo una ventina, non sono tanti considerando da quanto tempo faccio il podcast, però una ventina di CD sono stati venduti grazie al mio podcast, quindi un mio piccolo contributo alla musica indipendente. Il fatto che le major ti mandino, no, delle pile, sì, di CD, adesso non lo so, magari, però la maggior parte venivano da etichette indipendenti, soprattutto, sì, c'è un paio di agenti americani che mi mandano, sì, questi CD. Però mi sono arrivati un paio di CD, sì, da un po' di me. La cosa mi ha sorpreso moltissimo, poi, tra l'altro. Perché tante cose che si pensano in giro forse non sono vere, cioè che c'è un rapporto difficile tra le major e i podcast. Ecco, io devo confessarvi, stasera provo un grande sollievo nel fatto di non dover spiegare per una volta agli ascoltatori che cos'è un podcast, che è una domanda che di solito mi viene posta in innumerevoli interviste, seminari, convegni, in cui forse mi sono reso conto del fatto che questa parola podcast è un po' un ostacolo. Cioè all'inizio era agganciata all'iPod ed è stato un aiuto perché c'aveva tutto il sostegno della Apple dietro. Oggi però se tu dici podcast alle persone c'è comunque una barriera, una spiegazione tecnologica di mezzo. E allora vorrei farvi sentire a questo proposito un brano tratto da una trasmissione andata in onda su Radio Spazio Aperto, che è una radio romana che prova ogni tanto a lanciare uno sguardo su queste nuove tecnologie, in cui mi è stato chiesto di spiegare il podcasting alla casalinga di Voghera e poi lo commentiamo insieme. Attraverso questo nuovo sistema, nuovo nel senso che ha soltanto 2 anni di vita, nuovo sistema di distribuzione di contenuti multimediali che si chiama podcasting. Benissimo. E di cui Max si parla forse troppo in tecnichese, cioè ne parliamo, certo, sempre in contesti un po' specialistici e penso che sia controproducente. Vogliamo provare a parlarne veramente a tutti per una volta? Sì, allora noi abbiamo ospite questa sera in studio la casalinga di Voghera. Buonasera, Siura. Buonasera. Ecco. Buonasera, l'abbiamo chiamata così tante volte, finalmente interviene. Che non lascio fare quella di Voghera. Vabbè, uguale lo stesso, va bene, basta stare al nord. Vabbè. Allora, lei sa cos'è il podcasting? Podcasting? Signora casalinga, lei come la guarda la televisione? Come funziona? Ah, guardi, se non mi metto gli occhiali non vedo nulla. Eccola. Va bene, vabbè, immagino che lei avrà un telecomando e uno schermo televisivo, no? E accende la TV, vede i programmi preferiti. Accendo la TV, sì, metto sempre gli stessi perché alcuni tassi sono, li vedo meglio. Ecco, quali sono i suoi programmi preferiti? Ma quelli che mi insegnano a cucinare, quelli che mi fanno compagnia, quelli con quei bei ragazzotti che si scambiano tutte quelle storie d'amore. Ah, pensavo cose brutte. Le telenovelas. Le telenovelas. Quelle là, sì. Ecco, allora, così come lei guarda la TV adesso, in futuro lei avrà uno schermo al plasma molto bello, eccetera. Mamma mia, con sangue. No. Compressione. Voi sai che cos'è il plasma? Io pensavo facessi una cosa sul plasmon, ma no, avrà un LCD, vabbè, insomma, avrà un televisore molto un LCD, più vabbè, un televisore piatto, bene, piatto. È piatto, appeso al esatto. muro, ecco. E quando lo accenderà non dovrà vedere che cosa passa il convento, non dovrà mettersi col telecomando a cercare nei vari canali le sue trasmissioni no. preferite, perché no. il televisore già lo saprà quali sono le sue trasmissioni preferite. Oh, ma che bello. Sì, perché sarà un televisore intelligente e le dirà quali sono di tutte le serie sì. televisive che lei segue le puntate che sono andate in onda e che lei ancora non ha visto e le darà modo di vedere, che so, l'ultima puntata di Incantesimo che magari lei si è persa perché è andata a giocare a burracco con la sua amica Delina. Eccoci, poi le racconto io alle mie amiche e le faccio morire di invidia. Ecco. Il televisore è più intelligente di lei. Vabbè. Ecco, no, lei non saprà che dietro tutto questo ci sarà una cosa che si chiama podcasting. Allora, io forse avrò anche un po' esagerato, però vorrei sentire il vostro parere in questo, su questo mio sforzo di divulgazione. Renato? Allora, la casalinga di Voghera l'avevo ascoltata proprio stamattina mentre andavo a lavoro in macchina tramite il podcast di sì, Lo Sciame. Sì, che è la trasmissione. No, mi sono divertito tanto ad ascoltarlo, penso sia stata una spiegazione che non so quanto possano aver capito chi non sapeva niente di podcasting. Quello è il problema, devo dire l'illuminazione per dare questo nuovo concetto l'ho avuta una volta parlando con Tommaso Tessarolo, il grande guru della Net TV, che mi disse un giorno: basta, non parliamo più di podcast, di feed RSS, semplicemente c'è un oggetto che è il telefonino dove c'è un tasto, lo premi e ti appaiono tutte le tue trasmissioni preferite, basta, non bisogna dare altre spiegazioni. La stessa cosa succede sul televisore, secondo te Mapo può funzionare? Ma sì, assolutamente, perché comunque, diciamo che comunque ultimamente in giro anche negli spot televisivi o anche negli spot, nei cartelloni in giro per la città, comincia a venire fuori più frequentemente la voce podcast, perché comunque le major, anche se giocano a favore del podcasting indipendente, stanno cominciando un po' a promuovere il fenomeno. Certo. Però al contempo... sicuramente, ecco, adesso il termine podcast sta abbastanza stretto, diciamo che non è più legato strettamente agli iPod, alla sua radice in attività, ma adesso il lettore MP3 ormai è nelle tasche di tutti quanti e quindi sì, forse è la classificazione migliore è quella del pulsantino che in qualunque aggettivo, sì. Credevo anche addirittura British Telecom aveva cominciato in versione beta a fornire un servizio proprio per utenze domestiche e quindi nella page view arriva direttamente la lista dei podcast, un po' come i canali musicali tematici di Sky, per esempio. Sì, ma British Telecom, ne parleremo più avanti in trasmissione anche durante l'intervista con Stefano Vitta, ha realizzato questo box dove dentro c'è veramente tutto, ma non quel tutto limitato che c'è in certi box che producono i nostri carrier, no? Dove loro stabiliscono cosa conviene e cosa no. Nel box di British Telecom c'è l'aggregatore per i podcast, premi un tasto e ti saltano fuori tutte le tue trasmissioni preferite. Cioè, da qualche parte gli dovrei dire che sono le tue preferite, perdonami. No, lui lo allora, è chiaro, hai ragione. Non mi fa passare per la casalinga di Voghera, però... No, cioè, chiaramente tu ci arrivi con un sistema di directory e sottodirectory, esattamente okay. come funziona con la sezione podcasting di iTunes, ma nel futuro che io prospettavo alla casalinga di Voghera, c'era un televisore così intelligente da capire che cosa la casalinga vede quando vede la TV tradizionale e poi gli ripropone le puntate che ha perso quando se l'è persa. Certo. Che è una cosa che in qualche misura fa già Sky, no? Con il suo servizio My Sky, però con tutta la pesantezza dell'hard disk del sistema di Sky, che come sappiamo chiaramente non è così economico e cost effective. Comunque, ragazzi, siete d'accordo sul fatto che un giorno avremo tutti due postazioni, una fissa a casa che ruoterà intorno allo schermo piatto dove ci sarà tutto ciò che noi offriremo quando saremo svaccati sul divano, e una mobile che ci porteremo sempre dietro, che farà da telefonino, radio in diretta, radio podcast, TV in diretta, TV podcast, magari non nel futuro più immediato, però su questo io devo essere un po' fuori coro, nel senso che fondamentalmente la mia vita è già così. meglio, perché comunque ho praticamente cestinato la TV, non guardo più la TV ormai, tranne che per neanche più i notiziari, quindi mi ricerco un po' le notizie di me. E poi fondamentalmente ormai è il PC che fa la TV su un bel 33 pollici. Vabbè, ma tu non hai problemi, no? Mettere insieme la catena tecnologica che ti permette di guardare la TV sul computer. Diciamo che più che altro è quello che mi auguro. Ecco. Va bene, d'accordo. Io ringrazio sia Marcello, detto Mapo, per il suo tempo, soprattutto lo ringrazio per questo splendido podcast che invito tutti ad ascoltare, che si chiama Altrove, cercatelo su iTunes. Renato rimane con noi in studio per commentare anche le cose che diremo più avanti, e adesso facciamo una vera pausa musicale. Ok, grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Sei su Radio Imago. Entra nel sogno, ascolta l'immagine. Sei incredibile, con questi insetti. Adesso spiegaci cosa erano questi rumori. Ma questa era la fase finale, la più decadente, la più delirante di tutta la serie di Pendo Deliri, che vabbè, all'inizio erano dei commenti che facevo mentre mi spostavo da casa al posto di lavoro, no? Descrivevo questo mondo delle periferie frequentate dai pendolari, questa periferia un po' stuprata da questi non luoghi, pompe di benzina, stazioni di servizio, centri commerciali. Poi col tempo io per primo mi sono stufato di quello che dicevo e cominciavo a registrare semplicemente i suoni senza neanche commentarli. Tanto non è che mi interessasse fare ascolti, perché vuoi che si senta questo, però per dare un'idea di quanto può essere libero, no, un podcast rispetto a una radio tradizionale. Questo un po'. E questa è una radio tradizionale? Sì, no, vabbè, adesso. No, sì, era giusto per sottolineare. Ho voluto, diciamo così, dare uno sguardo su questo mondo un po' strano. Tra l'altro, se mi permetti, mi ricordo di aver visto un tuo video sul tuo blog che registravi dei suoni sulla pontina sopra un cavalcavia. Sì, le spiegazioni, sì, di come non che fare. No, poi è passato anche un pullman della Neuro che voleva una piccola ambulanza che mi voleva portare. Ti potevano anche via. Arrestare. Mi potevano arrestare, pensavano che io volessi buttare un sasso dal cavalcavia, poteva benissimo essere, invece stavo registrando il ruggito della pontina, che è secondo me un suono che riunisce in sé tutta la cattiveria e tutto lo stress che si può maturare in anni dei pendolari, in anni di pendolarismo. Perché è una strada veramente cattiva, è una strada che ti mangia e fa anche parecchie vittime. Esatto. Ma come spieghi, Renato, questo? A parte noi, no? Cioè, ci sono altri podcaster attivi proprio lungo la via Pontina. È vero, da Latina fino a Pomezia, Brivia. Sì, è una zona. Avevo pensato anch'io questa. Belle riflessioni, eh. Va bene, dunque, allora noi introduciamo intanto il guru di oggi, che è Stefano Vitta, un vero e proprio punto di riferimento per tutta la comunità, diciamo così, della banda larga condivisa a livello, direi ormai anche internazionale, perché lui è il country manager di FON Italia. Non voglio dire altro perché poi ce lo spiega lui nell'intervista esattamente che cosa fa. Guru Meditation. Guru Meditation. Guru Meditation. Allora, Venture Camp di Roma, 6 ottobre 2007, siamo in compagnia di Stefano Vitta, che in FON Italia è il country manager. FON è, beh, potrei dirlo io, però voglio farlo dire a lui. Un saluto a tutti gli ascoltatori. FON è una startup che è nata ormai da un anno e mezzo in Spagna ed è un progetto che si basa su un'idea molto semplice. Attraverso l'installazione di un piccolo router wifi che noi produciamo e distribuiamo, tutti gli utenti che hanno a casa una connessione a banda larga possono condividerla fra loro, possono condividere una piccola porzione della loro connessione fra di loro e quindi creare tanti hotspot per andare a coprire il territorio attraverso la tecnologia del wifi. In sostanza, chi aderisce a questo progetto ha un numero virtualmente infinito di hotspot dove collegarsi. Per il momento però non in condizioni di mobilità, corretto? Esattamente. Un normale hotspot, come si trovano già in circolazione, solo che sono degli hotspot tra virgolette casalinghi, perché sono appunto residenti negli uffici, nelle case delle persone che hanno aderito alla nostra community. Ecco Stefano, ho letto recentemente una notizia che mi ha fatto sollevare le sopracciglia, faccio una traduzione dall'inglese, mi ha lasciato un po' così sorpreso, perché non avrei mai creduto che un progetto come FON così velocemente riuscisse ad agganciare un grande carrier di telecomunicazioni europeo, e sto parlando di British Telecom. Quali sono i termini dell'accordo? Allora, grazie appunto a British Telecom, che ha creduto nel nostro modello e lo ha ritenuto una funzione principale e fondamentale per diffondere ulteriormente il suo canale Wi-Fi nei confronti dei suoi utenti, e con questo accordo che è stato fatto abbiamo avuto la possibilità di inserire nei servizi e quindi integrare nei box questo British Telecom, come fanno poi anche altri ISP nostrani, distribuiscono dei box dove veicolano non solo la connessione a banda larga ma anche IPTV, telefonia over IP e varie cose, e da oggi gli utenti British Telecom, se vogliono, possono anche attivare la funzione FON e quindi condividere, come fanno gli utenti FON normali, una parte della loro connessione e creare quindi il loro hotspot FON di una nuova community che è appunto definita, chiamata BT FON Community. Quindi in sostanza chi aderisce all'offerta di British Telecom con questo, diciamo, plugin di FON ha la possibilità non solo di avere la connessione wireless con tutti questi servizi in casa, ma di ritrovare la stessa connessione praticamente in nelle zone in cui ci sono tutti gli altri aderenti al progetto. Sì, parliamo di un possibile numero di 3 milioni e mezzo di utenti che potrebbero diventare da domani dei Phoneros e quindi creare 3 milioni e mezzo di hotspot in UK. Coprendo tutto il territorio nazionale. Praticamente. E questo mi sembra un bel vantaggio competitivo. Adesso mentre parlavi, correggimi se sbaglio, ma non sarà mica che questo box di British Telecom è lo stesso che anche a bordo un aggregatore di podcast? Mi cogli spiazzato, io adesso l'ho visto. Lo sai, questo è il mio interesse personale perché sono sempre stato appassionato di podcast, ho sempre fatto una campagna per portare il podcasting fuori dal computer, no? Gli aggregatori fuori dal computer e più vicini agli utenti che magari non usano il computer. Se noi avessimo un aggregatore, come io so British Telecom ha fatto nei suoi box, in grado di permettere la syndication di tutti questi contenuti a bordo del normale televisore, ecco che attraverso questo box arriva una vera offerta concorrenziale di contenuti sterminati rispetto a qualsiasi altra offerta proprietaria. Questo... Io sono un amante del podcast, ho sempre spiegato, comunque utilizzato anch'io attraverso il mio blog il podcast proprio per la possibilità, e sono uno dei primi fruitori. Ogni volta che viaggio, ogni volta che mi scarico i miei feed di podcast e impiego il tempo in macchina o in treno così ascoltando i podcast rilasciati dai tanti siti e canali, uno dei quali appunto è anche BBC, come sappiamo, insomma, è uno strumento usato molto nel mercato americano e inglese. In Italia sta nascendo, ci sono stati i primi, ma è sicuramente importante, il punto di forza è l'on demand, cioè riempire i tempi morti. Certo, la sincrono, di cui il podcasting è solo una declinazione. Tornando a Phone, qualche numero sulla grandezza di questa rete in Italia in questo momento? Attualmente abbiamo da poco superato i 25.000 utenti registrati, che è un obiettivo che ci soddisfa, tenendo conto che non sono stati ancora fatti grandissimi investimenti da parte dell'azienda nel nostro territorio. Sono in corso diversi progetti e io credo che entro la fine dell'anno riusciremo nuovamente a farti alzare le sopracciglia. Grazie. Beh, prima di chiudere volevo chiederti, esattamente un utente che volesse aderire al progetto Phone che cosa deve fare? Allora, sul sito www.phone.com trova tutte le informazioni, può downloadare un firmware nel caso in cui fosse possessore di un router compatibile, quindi rendere già il suo router che ha a casa compatibile con Phone e farlo funzionare, oppure acquistare la Phonera, che è questo router prodotto e disegnato da noi, fatto apposta per irradiare questi due segnali diversi, uno wifi normale, quindi si wifizza a casa o ufficio, e l'altro invece dedicato alla community. Grazie. Bene, meno male che questa è una trasmissione per iniziati, perché se vai dalla casalinga di Voghera e gli dici devi downloadare un firmware... Ma è una specie di Fastweb, di grande rete... Lui parlava di due canali, alla fine parlava, sì, di due canali. Uno, quindi... è quello tuo, per il tuo wifi, certo. E l'altro è la parte che metti a disposizione degli altri. Tra l'altro noi qui in studio abbiamo Renato, che è una delle vittime di Stefano Vitta, nel senso che lui si è fatto la Phonera, cioè questo router della rete Phone, e tu te la sei fatta, no? Sì, sì, ho la Phonera in casa e io credo che abbia un limite... una bassa portata, nel senso che per poterne usufruire in tutta casa ho dovuto mettere un'antenna più potente. Ah, ok. E questo penso sia un problema per chi, per esempio, ha una Phonera in un condominio, una persona che magari vuole usufruirne da fuori. Ma questo è un limite, scusa, del router o un limite proprio del sistema wifi in sé? No, del router, sì. Penso del router, sì. Credo sì, sì, che... Però superabile, immagino, cioè. Certo, basta, sì, un'antenna. Basta una, sì, mettere, sì, un'antennona. Però non so quanta gente sia disposta a spendere altri soldi per mettere un'antenna, magari uno che abita, che ne so, in una zona centrale, al, sì, settimo, sì, piano, sì, sì, non so, per far usare la Phonera a chi va per strada. Va bene, vedremo, insomma, tra Wi-Fi, Phonere, WiMAX, poi c'è quest'ultima tecnologia che moltiplica, no, le celle il raggio del tuo cellulare e ti crea della banda UMTS che possono usare anche le persone intorno. Ne sentivo parlare l'altro giorno Antonio Sofi nella sua rassegna stampa tecnologica. Insomma, piano piano il c'è wireless, molta carne a fuoco. C'è molta carne al fuoco. Bene, sono oltre le 20, ecco, vedi, mi hai fatto sforare, Daniele. Mi spiace, è sempre colpa mia, lo so, è sempre colpa mia, però sono stata buona, ho fatto pochissime domande. Sì, oggi, ma dai. Solo perché non sei ancora proprio al massimo della forma. Noi ringraziamo anche Renato, continueremo a sentire i tuoi podcast. Tu senti però anche un po' di jazz di Radio Mago, vero? Sì, sì, no, ma io l'ascolto Radio Mago, vi ascolto sempre anche a voi. In modalità rigorosamente asincrona. Sì, io in podcast lo ascolto. Va bene. Allora, io ringrazio ancora una volta Mapo se ci sta ancora sentendo, ringrazio tutti gli ascoltatori e ci sentiamo la settimana prossima. A ciao. Giovedì. Ciao. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.